Ejo, Pixa, ha, Hared, ha, Barda Blanca Records, ha, hey, hey, senti un po', man. Ole, hey! Reagisco piano ad ogni critica, ogni gesto in pratica, commenta il parlare senza giustifica. Limita i tuoi soliti bla bla, perché io parlo poco e sono ancora qua. Tu invece succhia, odio il bel paese, la rinuncia di un governo decente da decenni e denuncia. Odio mentalmente minorenne la presunta coscienza di avere un futuro nero come nulla. Odio le mode, tutto ciò che mette in mostra, cremini e ragazzine, cinti gucci c'è motorini, zitto in bosca, il poco che c'è addosso, cresciuto con il nulla e miei risparmi nascosti facendo un fosso. Prima soffrivo, invece morrido per tutti, di chi giudica e sparla sopra i miei giorni vissuti. E odio pure chi crede che qua gli do importanza, perché se lo crede capisco che è troppa l'ignoranza. E che gli è spiega assurda quella che c'è addosso, resto scosso, combatto contro lo stato colosso. Pixel rap man, sempre in piedi, non ci credi? Spesso pessimista, circondato da pensieri torbidi, per come la penso io non esiste Dio. E poi lo stato dove vivo, beh, non lo ritengo mio. A parlare non son le parole, ma i fatti siamo sempre. Fatti sto coi sempre, fatti men. E la mia vita è stata sempre abbastanza normale, meno male. A parte qualche storia, beh, può capitare. Ma sto circondato da mediocrità, in uno stato dove chi comanda è la chiesa. E il vero boss è il papa. Mio papà è già in pensione, ha già fatto tutto. Io in pensione se ci arriverò, beh, mi fa di brutto. E chiudo questi 16 con tanta fretta, perché devo correre, le occasioni non mi aspettano.